ci fa parlare di cinema, film sarà il testimone invisibile. Poi passeremo in Toscana, dal Venino del Mugello, proietteremo Euforia, e ci sarà ospite un attore che si chiama Luca Carnani, che lo è molto apprezzato. Poi passiamo a Fidenzuola e proiettiamo Troppa Grazia, e ci sarà il regista Giorgio Tisitti, anche lui è un protagonista della Berlino, e chiuderemo a Scarteria San Piero con Poeta Rhapsody dell'anno e con la performance di una tribute band dei Queen. Questo è un po' il nostro programma di quest'anno. Senti, quali sono stati i criteri di scelta dei titoli? È molto semplice, noi dobbiamo fare il cinema che avvicini la gente al cinema. Per quest'anno abbiamo scelto una selezione insieme ai sindaci, i quali hanno cercato di capire le esigenze dei loro cittadini e hanno sostanzialmente scelto i film insieme ai cittadini. Questi sono luoghi, dovete ricordarvelo sempre, che non hanno il cinema. Quindi è un momento di aggregazione in cui si parla di arte e di cultura, in un momento in cui c'è anche il turismo, perché questa è una via, la via degli dei, vi invito a vedere in internet che cosa è. Ci sono più di 25.000 persone che vengono, fanno trekking, camminano da Bologna a Firenze dell'Appennino e si fermano a vedere i film. L'anno scorso abbiamo avuto più di 7.000 presenze, sono tantissime, considerato che sono piccoli comuni, è davvero un successo. Ecco, come funziona l'incontro con il paese e poi l'evento? In ogni piazza, in ogni punto rilevante, più bello da un punto di vista sia architettonico che culturale, perché a volte sono palazzi comunali, a volte sono invece delle piazze, però sempre all'aperto, nei cortili o nei chiostri, oppure nelle piazze, abbiamo fatto chiaramente una campagna di sensibilizzazione in tutti questi paesi e arrivano non solo gli abitanti del paese stesso, siano essi giovani o anziani, poi ci sono anche i turisti, cioè quelli che in questo momento sono in cammino e quindi hanno un'offerta di questo genere la sera. È per questo che siamo molto contenti, perché è un modo per promuovere il nostro territorio, che è fondamentale, perché l'Appennino rischia di spopolarsi altrimenti. Mm-hmm. I riferimenti internet per seguire la programmazione? Basta vedere, noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Festival Via degli Dei, oppure Genoma Films. Queste sono le due pagine che su Facebook e su Instagram ci sono. Allora, visto che ci siamo sentiti anche per la scorsa edizione, un bilancio dello scorso anno? Gioco forza, quest'anno raddoppiamo le presenze, perché quest'anno l'evento primario, primo evento, è stato in Piazza Maggiore, dove c'erano più di 5.000 persone, credo 6.000, quindi l'anno scorso ne abbiamo avuto 7.000 dei comuni, e quest'anno raddoppiamo. Il bilancio della prima edizione è stato molto buono, a questo punto siamo già al terzo giorno della seconda edizione. Devo dire che abbiamo già siamo a più delle presenze dell'anno scorso, perché abbiamo avuto l'opportunità con la Cineteca di Bologna, che ci ha aperto le porte della piazza e ci dà il patrocinio del Festival degli Dei. E l'anno prossimo sarà ancora meglio, perché avremo al nostro fianco, c'è una legge regionale, un bando che dice che possiamo avere l'aiuto della Commissione regionale. Bisognava dimostrare in due anni di essere seri, lo abbiamo fatto, e l'anno prossimo abbiamo la possibilità di accedere al bando. Questa per noi è una grande notizia. Se posso dirti, abbiamo anche una banca locale che ci sostiene, che è fondamentale, è una banca che ha il cuore nel territorio, quello che stanno facendo è in pro dei propri cittadini. Senza questo enorme sforzo finanziario non avremmo potuto portare gratis il cinema in queste piazze della montagna. E allora ricordiamo la seconda edizione del Festival degli Dei in 8 comuni dell'Appennino Tosco-Emiliano dal 1 all'8 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e curatore Paolo Rossi Pisu. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. A voi, grazie mille, grazie per la vostra attenzione, un abbraccio a tutti. Con Massimo Arcangeli dell'ANEC Lazio per presentare la prima edizione del Cine Village Arena Parco Talenti a Roma dal 21 giugno all'8 settembre 2019. Massimo, ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. Ci racconti di questa arena? Sì, è un'arena, ma che non è solo un'arena, è parte dal cinema, noi siamo gli esercenti cinematografici, il Cine Village è la parte dominante di questo progetto, ma

Cartello Errante è a tutti gli effetti, diciamo, la prima residenza internazionale del cinema che mette in collaborazione l'Italia e 10 paesi dell'America Latina. Una collaborazione quindi che parte dall'idea e dall'importanza dello scambio, uno scambio che in questo caso è internazionale e in qualche modo è basata sia su percorsi di formazione che percorsi di produzione cinematografica e non solo, e percorsi di promozione, quindi che invece riguardano tutto quello che è il rapporto con il territorio, sempre attraverso il cinema e l'audiovisivo, e quelli che sono poi i momenti di appuntamenti in calendario aperti al pubblico, che accolgono i curiosi, gli appassionati di cinema, o comunque di un progetto che è un po' strano, perché per tutti gli effetti è un format un po' anomalo in qualche modo. Come sarà strutturata questo periodo? Noi abbiamo atteso e sono arrivati in Italia all'incirca 20 studenti che provengono dalla Latino America, da 19 scuole di cinema nazionali e internazionali, in questo caso di cinema di 10 paesi differenti, c'è anche l'Italia, con il Centro Sperimentale di Cinematografia e altri ragazzi, il truccatore dallo Studio 13 e un musicista invece dall'Accademia Griffith che partecipano, quindi sono anche gli italiani. E abbiamo acceso tutta la troupe, sono arrivati in Italia, adesso si mettono al lavoro, fanno un piccolo periodo di preproduzione nel Centro Sperimentale di Cinematografia, preparano gli eventi e l'aspetto proprio di produzione, quindi quelli che sono i film e i documentari che andranno a girare poi successivamente a Sorrentina, quindi ci si sposta a Sorrentina il 7 di luglio e da lì in poi inizia tutto un percorso che vedrà appuntamenti come il 10 luglio con un pianista cubano nell'incantevole Santuario di Vescovio, un concerto pianistico con un repertorio molto interessante di compositori di musica classica latinoamericana, Marcos Madrigal, il musicista cubano che suonerà per noi in questo posto che è veramente meraviglioso, e questo è un appuntamento, diciamo, importante aperto al pubblico che abbiamo all'interno del programma di Castello Errante. E dopodiché inizierà un percorso di produzione, quindi i ragazzi andranno proprio a girare un prodotto di fiction che è stato scritto da uno sceneggiatore del Centro Sperimentale, che quindi verrà realizzato da tutta la troupe, che è una troupe variegata, quindi c'è la regista che è messicana, il direttore della fotografia che è una direttrice della fotografia che è argentina, poi abbiamo la direzione del sonido che viene invece dalla Costa Rica, quindi è tutto un bel gruppo di regione molto particolare che si sta conoscendo in queste ore, quindi c'è stata una presentazione proprio da pochissimo, infatti c'era una presentazione stampa il 3 luglio e Lila, Istituto Latinoamericano, e lì ci sarà una conferenza stampa con la partecipazione di un testimonial, quest'anno il testimonial Giacomo Ferrara, co-protagonista di Suburra, e è testimonial del nostro progetto. Sto provando a dirti così a braccio un po' tutto, e dopodiché appunto a Sorrentina ci sarà la produzione di questi lavori. E uno è un prodotto di fiction, come dicevo prima, e un altro invece è un documentario alla riscoperta di alcuni luoghi di culto della Sabina, quindi molto in contatto con il territorio, alla scoperta del territorio, e c'è anche qualche chicca che andremo a riprendere, non ancora mai documentata in pratica. Ok. E ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più, soprattutto per quanto riguarda gli appuntamenti aperti al pubblico? Assolutamente. Allora, il riferimento più importante è chiaramente il nostro sito, che è www.castelloerrante-ric, quindi Roma Imola Como.it. Questo è il nostro sito, lì ci saranno tutti i comunicati, quindi gli aggiornamenti. Ovviamente ci trovate anche su Instagram e Facebook, o forse anche meglio appunto i social per le notizie in tempo reale. Il primo appuntamento aperto al pubblico è quello di cui ti parlavo prima, quindi con questo concerto pianistico nel santuario di Vescovio a Sorrentina in provincia di Rieti alle ore 9. Gli altri appuntamenti saranno il 16 e il 21, sono delle arene, quindi cinema sotto le stelle con tematiche particolari, lì incontreremo registi e documentari, verranno presentati dei documentari, che il tema di quest'anno è il confine,